Vado piano, sto. Va bene così. Anna, basta! Anna, basta! Basta, basta. Puoi scendere? Ti do un ramettino, guarda quanti bei rametti.